Pronto? Pronto, signora? Pronto? Pronto, signora? Si parla. Io sono un uomo un po' rovinato. C'è mia moglie che non vuol fare più sesso con me. Ma senta, è proprio venire qui a dire delle stupidate. Smetta. No, ma sto dicendo la verità. 105. Ma chi ha chiamato la vecchia? Ma chi ha chiamato la vecchia? Quella puttana di sorda, ma sei una merda. Sei una merda.